Facciamo uno spettacolo sulla resistenza. Facciamo uno spettacolo sulla memoria. Facciamo uno spettacolo sui partigiani, mi dice Marco Dell'Arci. E io gli rispondo: sti partigiani sono bravi cristiani, per carità di Dio, ma so vecchi, non so vendibili, non li potemo siliconà, al massimo li potemo imbarsamà. Famo io fa un reality, l'isola dei partigiani, così li mandiamo tutti al confine, oppure ballando sotto le bombe, uno spettacolo esplosivo, eh? Lo facciamo uno spettacolino con i supereroi rincoglioniti, eh? Uno spettacolo fatto di storie, le storie dei nostri nonni, ma senza la ricetta della nonna, eh? Uno spettacolo per radica chic di merda, uno spettacolo fedele alla linea dov'è? Uno spettacolo per non dimenticare, per non dimenticare, per non dimenticare, per non dimenticare, per non dimenticare, per non dimenticare. Diceva Beppe Fenoglio che quello la resistenza l'aveva fatta. E ci aveva scritto pure i libri, diceva, faceva dire ad uno dei suoi personaggi, faceva dire così: non t'offendere, ma voi partigiani siete di gran lunga la parte meno importante. E allora perché dovete crepare in attesa di una vittoria che intanto verrà lo stesso senza all'infuori di voi? Eh? Allora lo facciamo sto spettacolo sulla resistenza, sto spettacolo sulla memoria, sto spettacolo sui partigiani, eh? E famolo su mi nonno non era comunista, anzi a mi nonno non gliene è mai fregato niente. Mi nonno mi ha lasciato una casa abusiva a prima porta, che per costruirla pure è sventrato mezzo alla montagna, che le moniche ci hanno fatto pure causa. Mi nonno bestemmiava talmente tanto che ne aveva elaborate delle personali. Per esempio, la più famosa faceva così: ecco Dio! Oppure: mannaggia i cancelli del paradiso! Io da ragazzino mi immaginavo che questa bestemmia faceva volare tutti i 100 cancelli. Mannaggia il sacro collegio! Io mi vedevo i vescovi in conclave che cadevano uno a uno. Oppure: mannaggia Sant'Andrea della Valle! Ah no! Ma che t'aveva fatto sto Sant'Andrea della Valle, eh? Mi nonno è morta all'età di 90 anni che se fumava un pacchetto di sigarette al giorno. Mi nonno è morta da enfisema polmonare, non aveva mai fumato una sigaretta. Allora, qual è la morale della favola? Nessuna. Non c'è morale della favola in questa storia. Basta con sta retorica di fascista. Basta con questi spettacoli inconsolatori e basta con i documentari intensi e necessari e basta con gli alemanni che vanno al museo della Shoah e basta con queste Schindler liste, con queste mappe interattive, con queste giornate della memoria, con questi guardiani della memoria, con questi musei progettati dagli archistar, con questi tour degli orrori del secolo passato. Adesso andiamoci da quest'anno a Pompei o a Auschwitz. Sono passati 60 anni, Marco Dell'Arci, basta, abbiamo altri problemi. Grazie. La notte vado a letto e faccio un incubo. Sono in gita con la classe quarta A. Sono in gita a Pompei, ma veniamo dirottati ad Auschwitz. Lungo la strada ci fermiamo all'autogrill Fini e lì festeggiamo il 25 aprile. Ci sono tutti, eh? Auto blu, vigili urbani, signori anziani, corone di fiori spennacchiati, quelli della classe quarta con le borse spacche, le celtiche, le croci uncinate, un capitano, c'è solo un capitano, e vecchietti con gli stendardi in mano, sempre più gobbi, sempre più zoppi, sempre più vecchi, in offerta speciale, prendi due, paghi uno, e sul palchetto con la fascia tricolore c'è uno che parla. E io non capisco un cazzo di quello che dice, però lui lo dice, e lo dice con convinzione, e io lo guardo, ma non riesco a capire. E allora mi avvicino a guardare quell'uomo che sta parlando con la fascia tricolore sul parchetto e non vedo niente. Cioè non vedo i lineamenti del viso, non vedo la bocca, il naso, gli occhi, non vedo niente. Allora su, ma che te fai, i canni? Andiamo, professore, roba da zecchi. Tu sei zecca, professore? Adesso ce la fa una foto? Però poi le vai vecchietti imbarsamati, adesso ce l'hai la cartina, adesso sto compriamo il calendario cortuce, adesso. Marco Dell'Arci, dammi sti numeri di telefono dei partigiani da intervista. Il primo si chiama Giacomo Zolla. Il secondo si chiama Renato Busic. Il terzo si chiama Biagio Gionfra. Il quarto si chiama Nello Marignoli. Il quinto si chiama Aldo La Terza. Il sesto si chiama Bruno Selvaggini e il settimo si chiama Ugo Rapiti. Sono 7 storie. Ma la cosa prima che noto sono gli oggetti. Le scatole, le scatoline, le gondolette di Venezia, i pupazzetti di acqua e neve, i centrini, i zoccoletti olandesi, le foto. Ecco, io prenderei questi oggetti e li porterei a casa. Mi riempirei la casa di 1.000, 10.000 oggetti. 7 uomini, 7 piccole storie, 1.000, 10.000 oggetti, una storia unica. Un personaggio che quando parla si impiccia, che gli si impastano in mezzo ai denti le parole che si capisce solo lui, che certe volte manco lui si capisce. Allora si mette lì e scrive un diario, perché lui scriverebbe dappertutto, sui tavoli, sulle sedie, sulla carta del cesso, sulle facce dei cristiani, sui grugni, se uno ride lo fa piangere e se uno piange lo fa ride. Allora si è messo lì e ha scritto un diario. Dentro a sto diario c'è sta lui, sotto forma di diario. La prima cosa che ha scritto si intitola La razza dei cani, bucio di culo. E fa così. A paese mio ci stanno un sacco di razze dei cani bastardi, quelli piccoli che vanno al guinzaglio, quelli grossi che fanno paura e quelli che zitti zitti che ti fanno più paura ancora. E poi fuori da paese, vicino alla caserma, c'è sta un'altra razza. La razza dei cani bucio di culo. Tu li vedi passare sulla strada e li distingui da un chilometro. Eccoli! Ecco la razza dei cani bucio di culo. Camminano sempre insieme, uno vicino all'altro, trezzicanti e imperterriti per la loro strada. Lo sai perché li chiamano così? Perché i militari quando li vedono passare, gli sparano. Gli mirano al culo. E io mi sento come loro, come la razza dei cani bucio di culo, menomato, handicappato e con la cianca cionga. Ori ori, ori ori, c'hai la cianca cionga. Ori ori, ori ori, c'hai la cianca cionga. Lo sai come te la faccio, Te la faccio a pezzetti, a cucchietti, a dadini, a tocchetti, a pallina, a scocciafica, a mazzo da insalata. Te la prendo, te la andorcino, te la metto in padella, te la faccio aglio, olio e vendresca. Hai capito mica? Hai capito mica? Hai capito mica? Hai capito mica? Hai capito mica? Michele era fratello mio e c'aveva un portamento, mascella e muscolo, muscolo e mascella. Come Primo Cannera. Campione mondiale dei pesi massimi del 34, anzi, come Dick Furmine, l'eroe dei fumetti italici delle edizioni Audace. Oh, Dick Furmine era un poliziotto di Chicago, italo-americano. Difendeva i voracci compatrioti nostri dai negri, dagli ebrei e dai sudamericani. E c'aveva un pugno, fio di Dio, che te ci batteva addosso al muro. Michele, Michele, ma fa vedere un pugno di Dick Furmine. Tu però mi devi recitare la lettera a Italo Balbo. E io iniziavo. Caro Italo Balbo, maresciallo dell'aria, veterano della grande guerra, quadrunviro della rivoluzione, Michele, fratello mio da grande, vuole essere come te un eroe italico. Vuole trasvolare dall'altra parte del mondo. Volà con uno stormo alla guida di un aereo, trasvolare il continente e atterrare nella terra scoperta da Cristoforo Colombo. E io, pure se c'è un dandino de spazio, me vorrei infilare, perché io, caro Italo Balbo, so secco e me faccio piccolo piccolo da un angolino. E poi, visto che ci stiamo, pure io voglio diventare un eroe. Michele! Michè, chi era dei fumetti vuoi diventare? Io voglio essere come Gianni Saetta. Michele, Michè, io mi sento come i fumetti dell'Audace. Io mi sento come Romano il Legionario. Michele, Michè. Io mi sento come Tarzan! Io mi sento come Dick Furmine, papà! Io mi sento che mi sta a partire la mano, che sta più alla ringorsa e che ti sta atterrando sulla guancia tua. Sangue della Madondro cane! Resistenza passiva, resistenza passiva. Io non voglio far contadino. Io non voglio cogliere le nocchie. Resistenza passiva, le castagne. Io non voglio un pomidoro. Io voglio essere un eroe. Come l'eroe italico Italo Balbo. Hai capito, papà? E così Michele fece domanda per fare il pre-militare. Il 27 aprile del 39 partì. Oh, all'Accademia si distinse. Fece il passo romano talmente bene che lo misero davanti a tutti, da solo. Oh, era il più grande passo romano della storia dei passi romani, col più grande saluto romano della storia dei saluti romani. Il commendator Gigliotti Podestà del paese gli fece fare tutto il giro del paese con la gente che l'applaudiva e festeggiava. Duce, duce, duce, sangue della Madonna cane! Era il padre mio che stava a casa incazzato. Duce, duce, duce, coi compagni suoi, con Paccaio, poca ciccia, Struffolo e Settimio, il proprietario dell'osteria. Giubinò, Giubinò, via qua, che te devo raccontare una barzelletta. Allora c'è Mussolini a Piazza Venezia. Duce, duce, duce, italiani! Duce, duce, duce, tra di noi! Duce, duce, duce, c'è uno stronzo! Duce, duce, duce, sangue della Madonna cane! Se volevo far riconoscere! Il padre mio era fatto all'incontrario, alla rovescia, come i compagni suoi. Baccaio, poca ciccia, Struffolo, Salvadoretto e Settimio. Socialisti e frequentatori dell'osteria. Oh, io liscio e busso, Che c'hai? Lenin di seconda carica. Ce l'hai Marx? Famo che te pigli quello che c'ho. E ce l'hai Gramsci? No, Bakunin, dietelo. Turati, non ce faccio niente. Dammi almeno un Matteotti, magari. E che vuoi? Oh, io so dell'avvenire. E chi ce l'ha? In mezzo a quella folla il fratello mio marciava, il padre mio campava, i socialisti dell'osteria campavano e io li guardavo campare. E fuori, fuori, le urla. Il 10 giugno del 1940 l'Italia finalmente entra in guerra a fianco del valoroso popolo tedesco comandato da un imbianchino austriaco. Tutto quanto il paese si svuotò. I giovinotti furono mandati a difendere la nostra patria italica, le femmine piangevano i loro eroi e il padre mio stava sempre più incazzato. Sangue della Madonna cane! Dove ce li manderanno ste figli? In Albania? No! In Grecia? No! Ce li manderanno in Africa? In Russia? In Russia? Ce li manderanno in Russia? Io lo so che della guerra ho fatto quella 15-18! Sì, ma quella mica una guerra di trincea, una guerra lenta, questa è una guerra veloce, una guerra lampo! Io un lampo correvo con la cianga cionga, dai! A trovare la Tripulina, e chi è? Era una parente di un zio mio e era scappata via dalla Libia con tutta la sua famiglia. Io andavo a guardarla da lontano tutti i giorni senza farmi vedere. Mi mettevo in agguato dietro alle piante e aspettavo. Immaginavo le mani, le braccia. Mi immaginavo la bocca da vicino, i piedi, le orecchie e pure le cosce. E mi immaginavo pure di parlarci. E tu chi sei? Perché non mi rispondi? E io lo so chi sei tu. Lo sai che siamo quasi cugini? Come ti chiami? Senti, ma ti posso chiamare? Sempre se a te ti sta bene. Tripulina? Tripulina, guarda che ti faccio vedere. Il mondo! Guarda, guarda il nostro glorioso impero italico come aggredisce la Grecia. Guarda come attacca l'Albania. guarda come speditamente procede Jugoslavia, in Dalmazia, in Croazia, nell'irridenta fiume, e guarda come avanza vittoriosamente in Russia, in Africa, in Libia, per ridare la terra alla mia amata Tripolina che era nata là, che me lo dai un bacio? Ma che sta di? È il zio mio, con tutti i parenti di zio mio, e i cugini di zio mio, e c'è pure la Tripolina. Il zio mio mi guarda fisso. Zio, non ho fatto niente. Tutti mi fissano con aria grave. Zio, io non volevo. Il zio viene verso di me. Io non... Mussolini è accaduto! Si è fatto male? No! È stato destituito. Ma generale Badoglio, capo dell'esercito, dice che la guerra continua. Allora io vi ascenno de corsa verso Vignanello, verso il paese mio in piazza, e trovo tutto il paese. I fascisti si sono tolti tutti le spillette del fascio. Il commendator Gigliotti, podestà del paese, in mezzo alla piazza, da solo grida: ipocriti e vili! E in questi momenti che bisogna essere coerenti, ipocriti e vili! Dov'è la folla sonante che grida: duce, duce, duce! Dove sono gli intrepidi Balilla? Dove sono i figli della lupa? Dove sono le nostre marce trionfali? Dov'è il segno infallibile della vostra fede? Voi siete solo ipocriti e vili, ipocriti e vili, ipocriti e vili. Dio ti manda l'Italia come manda la luce, duce, duce, duce, ad avvenì baffù, ad avvenì compagno Stalin, grida dall'altra parte Settimio, compagni socialisti dell'osteria. Baffo, baffo, baffo, ipocriti e vili, ipocriti e vili, ipocriti e vili, baffo, baffo, baffo, ipocriti e vili, ipocriti e vili, ipocriti e vili, baffo, baffo, baffo, ipocriti e vili, ipocriti e vili, ipocriti e vili, ipocriti e vili, baffo, baffo, baffo, baffo, da mi ha aspettato tanto e molte festeggiamo. Baffo, Settimio cacciò fuori il vino più buono che c'aveva e tutti quanti se lo bevettero. Poi cacciò fuori quello meno buono ancora e se bevettero pure quello. E poi... quello meno buono ancora, quello meno buono ancora, quello meno buono ancora, quello meno buono ancora, alla fine se bevettero pure l'aceto, uscimo! Fece a un certo punto Settimio, barcollando, cantamo! Quel suono si spasse per tutta quanta la piazza, per i vicoli, per le strade, per le stanze, i giardini, i tetti, i soffitti. E io la piazza la vedevo rossa, vedevo il sole dell'avvenire, vedevo il comune avvolto in una grande bandiera rossa, vedevo il papà mio Settimio, vacca io, e poca ciccia, e struffolò, salì sulle scale, vedevo la Tripolina che mi veniva incontro e che mi baciava, non avevo visto però i soldati della milizia fascista, quelli prendono e ci appuntano il fucile, spara, noi avanzamo combatti, spara, intanto si era radunata una folla, arretrano, hanno paura, spara, sangue della madandra cane, urla il padre mio, davanti a tutta la piazza riunita per il 25 luglio, e padre mio grida ferma, e tutti si fermano. E padre mio avanza verso di me, via la rincorsa, e mi dà due schiaffi. Il giorno 10 agosto del 43 arriva la lettera di Michele. Michele, che voleva fare il pilota e che non aveva mai visto il mare. Ecco, io mi immagino Michele, fratello mio, che se ne sta in mezzo a mare, travestito da romano legionario, che avanza fiero col suo passo romano, col vento in poppa alla volta della terra greca come gli dèi. E intanto arriva l'8 settembre, il giorno dell'armistizio. Gli italiani non sanno che cosa devono fare, chi sono i nemici, chi sono gli amici. Tutti vogliono tornare a casa, ma mica tutti ci torneranno. Da noi i tedeschi e i fascisti prendono il potere. E però i compagni del papà mio si organizzano, da Civita, da Orte, da Bagnoregio, da Vetralla, ed è tutto un fermento. Pure da noi facciamo riunioni. Ci vado pure io. Chi scrive proclami? Io! Chi compone poesie? Io! Chi stampa e volantini? Io! Chi prepara chiodi a tre punte? Cazzo! Allora, chiodi a tre punte, è un chiodo a tre punte, è un efficace strumento per bucare i pneumatici. Quando passa un convoglio nemico, tu lo butti e zaccate. Se buca, capito? Sì. E allora, chi prepara chiodi a tre punte? Io! Chi fa rubare le armi presso i comandi? Io posso andare a rubare e basta? No! E io? Tu prendi la bicicletta e vai a portare messaggi. Io prendo la bicicletta, carico la bicicletta e pedalo. Non gli di niente a mio padre. Pedalo. Che se mi beccano mi fucilano. Prendo la bicicletta, carico la bicicletta e arrivo sulla montagna. Ecco. Oggi la mia missione segreta è portare un messaggio importante a uno importante, un professore, un comandante della banda del Cimino. Si chiama Mariano Buratti e insegna al liceo classico a Viterbo. E si è portato dietro un sacco di studenti. E poi è stato militare. E ha fatto la guerra d'Africa, E poi ci sono tanti militari con lui. Quelli la guerra l'hanno vista. E poi dice che hanno abbattuto pure un aereo piccolo, ma l'hanno abbattuto. Io al professor Buratti gli devo portare una lettera importante. Adesso vado là e gli faccio pure il saluto militare. Quello appena mi vede mi dà un pezzo di carta. Che devo fare? Scrivi. Scrivi? Tutti sanno scrivere, scrivi? Ma io veramente mi vergogno. Scrivi! Che devo scrivere? La Costituzione. Articolo 1. Voglio che tutti possano mangiare e sta bene. Articolo 2. Voglio che Michele diventi l'eroe della riconquista dell'impero. Articolo 3. Voglio baciare la tribulina. Articolo 4. Voglio Settimio capo del governo. Articolo 5. Voglio Ticca Furmine ministro degli esteri. Articolo 6. Voglio Tarze lavori pubblici. Articolo 7. Voglio indrizza le gambe ai cani bucio da culo. Articolo 8. Voglio diventare un eroe come l'eroe italico Italo Balbo. Articolo 9. Voglio che tutti ballano. Io tutti i giorni prendo la bicicletta, carico la bicicletta e pedalo che vado dal professor Buratti. Pedalo che devo scrivere la Costituzione. Il professor Buratti ci parla di Kant, ci parla dell'illuminismo, ci parla della libertà, ci dice che il fascismo cadrà. Il professor Buratti viene preso il 13 dicembre del 43 da una spiata, vi ha portato a Via Tasso, vi ha torturato e fucilato a Forte Bravetta. Il 31 dicembre io prendo tutti i libri e li brucio e mi passa pure la voglia di pedalare. E così la tribulina vado a trovarla a piedi. È giugno, è quasi estate, eppure se sta in salita io non sudo, passo in mezzo ai castagni, ai boschi e alla faggeta. A metà strada sento un rumore forte. Questi SP-47 da Thunderbolt. No. Questi SP-51 Mustang. No. Questi sono gli Spitfire, i cacciabombardieri inglesi. Dannate, perché non mi portate con voi? E nel mentre dico sta cosa vedo una grande nuvola rosa. Ma grande che rimango a guardarla a bocca aperta. È proprio bella. Io non ho mai visto niente di così bello. Una grande nuvola rosa in mezzo a cielo azzurro di giugno. Poi sta nuvola diventa tutta nera. Hanno bombardato Soriano! Tripulina, penso io. E comincia a correre, ma forte, come se non ci avessi più la ciancaciunga. Corro come un fulmine, come Dick Fulmine, che se me vedesse Michele, il fratello mio, gli farebbe invidia. Corro e grido come un matto, Tripulina, Tripulina, Tripulina, arrivo al paese. E intorno a me vedo tutte macerie. C'è rimasto soltanto un muro con la scritta Dux. Proprio su quel muro vedo un cristiano de polvere che tiene una gamba in mano. Da sotto una vecchia gli grida: è la scarpa di mio marito, è la cianca di mio marito, ridammela. Questa vecchia grida, urla, bestemmia, prova pure ad arrampicarsi. L'uomo prende la cianca e la lascia per terra. Io continuo a correre, sempre più forte, a gridare come un matto: Tripulina, Tripulina, Tripulina. In mezzo a vicoli, a strade, in mezzo a cocci, a sassi, in mezzo alla piazza c'è una femminetta tutta nuda. Non ci avrà nemmeno 20 anni. E colpo di vento gli ha portato via i vestiti, Porta in braccio una creatura. Questa creatura c'ha un cappottino. La porta alla fontanella, gli lava la faccia, gli aggiusta i capelli, gli pulisce il cappottino. Sta creatura perde sangue dall'orecchio. Arriva il dottore, sto dottore gli sussurra qualcosa all'orecchia. Penso che gli canti una ninna nanna. E il dottore prende la creatura e la porta via. Arriva alla casa della Tripulina, che rimango senza voce. E la casa non c'è sta più. E la Tripulina, non lo sappiamo, mi danno in mano una pala e comincia a scavare. Oh, c'è una pace che non avevo mai sentito. C'è un silenzio che te fa rimanere senza fiato. E che è lassù? Attaccata alla ringhiera. È una ragazza. Ma guarda che bel vestito bianco. È bello che pare una sposa. Tripoli, bel sol d'amore, ti giunga dolce questa mia canzone, sventoli e tricolore. Per mettere dentro sti morti ci fanno mettere delle pezze bianche come dei guanti, ci fanno infilzare morti con fil di ferro, ce li fanno infilzare dalla schiena, dalle spalle, dai polpacci per non toccarli, ce li fanno mettere dentro a delle barre, trovate del legno, trovate quella, ci fanno infilzare morti col fil di ferro, ce li fanno infilzare dalla schiena, dalle spalle, dai polpacci per non toccarli. Sono stati gli americani, sono stati gli americani, sono stati gli americani. I mortacci non sono stati gli americani, sono stati gli americani, sono stati e gli inglesi. E tu chi sei? Che vuoi? Tu sei Michele, fratello mio. Michele? Michele? Com'è te sei rinseccolito? Com'è sei così bianco, Michele? E perché porti il cappello con la stella rossa? Papà, papà, guarda chi c'è, Michele! A te da una sciacquata, Michele! Michele! Michele? Perché non mi racconti l'avventura di Dick Fulmine? Io sono partito entusiastico dalla guerra e della nostra flotta. Il primo valore era la bandiera e la patria. Io combatti il nemico anglo-americano con tutte le mie forze, fino al giorno 8 settembre, il giorno dell'armistizio. Quel giorno i tedeschi salirono sulla nave e la prima cosa che fecero, ammainarono la bandiera. A noi ci veniva da piagne. Volete combattere per il terzo grande Reich? Chi vuole rimanere un passo avanti, noi tutti a poppa, tutti sull'attenti, sotto una bandiera che non c'era più, avrei voluto essere come Dick Fulmine, salire sull'albero, prendere la bandiera e con spettacolare colpo di mano rimpossessarmi della nave e convogliare verso nuove avventure. Ma non ci ho avuto coraggio. Poi ci hanno caricato su un treno, ci hanno detto che ci portavano a lavorare. Quei treni ci portavano al massacro. Allora siamo zompati giù. Eravamo una quindicina. Abbiamo vagato 4 giorni e 4 notti, in mezzo ai boschi, in mezzo alla campagna. Ci mangiamo tutto quello che ci è capita sotto mano. Dormimo a turno senza accenni il fuoco, non sapevamo mica dove stavamo, ci siamo persi. Al quarto giorno sentimo delle voci da lontano. Ma che? Zitto! Quelli sono partigiani jugoslavi, sono partigiani di Tito. a me mi frega niente, io ho paura, ho fame, io mi consegno. Pace, pace, come si dice pace? Pace, io, pace, mir, pace, si dice mir. Quelli ci guardano in faccia, negli occhi, e ci fanno mangiare. Dopo aver mangiato, Josip, il comandante, si alza in piedi e dice: volete restare con noi? Allora dovete combattere con noi. Io resto. Mi arruolano nell'armata erzegovasca. Mi mettono un cappello rosso in capo, mi sento come Dick Furmine in missione per capire i segreti dei nostri nemici con la stella rossa. Andiamo verso nord. Camminiamo tutto il giorno, in mezzo al freddo, al gelo. La cosa che ricordo di più sono il freddo. Meno 20, meno 30. Oh, il fiato che ti esce dalla bocca forma tutti i canelletti di ghiaccio. I baffi e le sopracciglia diventano grossi come dei fulminanti. Eravamo diventati mascheri. Ma io non devo sparare. Io faccio il radiotelegrafista. Io collego, io metto in contatto. Io conosco i cifrari segreti. Io ho le guardie del corpo armate fino ai denti. Ma c'ho paura. Gli jugoslavi ci guardano male, ci dicono italiani fascisti. Quei pecorari della Bosnia, del Montenegro, del Kosovo non hanno paura di nessuno, niente. Hanno perduto il figlio, il padre, la moglie, la casa, i parenti. Hanno perduto tutto e non c'hanno più niente da perdere. Io c'ho paura a stargli vicino. E così la sera prendo una bottiglia di rakia, di grappa loro, e penso che intanto io non sparo, che io non devo sparare col mio moschetto italiano. L'ho scelto perché è quello più leggero, il moschetto. Busca tagliasca mi dobra. Sto fucile italiano non vale un cazzo, mi ripete Josip, il comandante. E rido. E tutti ridono. Eppure io rido. Tanto non devo sparare, penso, mentre bevo un altro bicchiere di rakia. E prima di dormire penso a te, fratello mio, a papà e alla razza dei cani in bucio di culo. E penso alle cosce delle femmine, ai fumetti dell'audace, al romano legionario, penso alla pecora bollita che ci siamo mangiati per tutta la settimana sotto l'assedio dei tedeschi in mezzo alla neve. E penso che la pecora a me fa schifo alla brace, figurate bollita, messa lì tutta sana, e che se ve la racconto mi piace per culo per una settimana che me la so mangiata. E penso che mi venderò sto moschetto per un piatto di pasta appena arrivo in Italia. Un moschetto per un piatto di pasta, un affare. È così che penso mentre mi via sonno. E buonanotte. Siamo a nord. Non siamo lontani dall'Italia. Davanti a me un cartello recita: Trust es nos. Trieste è nostra. Il comandante Josip mi prende da parte, mi fa: dove vamo? Vieni con me. Camminiamo mezz'ora e mezza al bosco, soli. Io mi porto dietro il mio moschetto. Mi fa salire su una montagna. Arriviamo sulla cima. Ci affacciamo. C'è una nebbia che non ti fa vedere niente. Lo vedi quel puntino laggiù? No, compagno Josip, io non vedo niente. Guarda bene, che cos'è? Un italiano, un tedesco, un partigiano, un civile. Spara. Ma io, compagno Josip, faccio radiotelegrafista. Io collego, metto in contatto, io conosco i cifrari segreti. Io... Spara. Io controllo le guardie del corpo armate fino ai denti. Spara! Quando comincia a sparare, non smetti più, non vuoi più smettere. Senza una mano, senza un braccio, senza un piede, non ti frega niente. L'importante è che torni a casa, l'importante è che porti la pelle a casa. E poi, quando spari, è tutto più facile. E poi, quando spari, te senti più te. Ah, Marco Dell'Arci, mannaggia la paletta che me fa. Me la fai diventare un'ossessione sta roba. E se come dice Meneghello nei Cattivi Maestri li avessimo ammazzati tutti? I fascisti, dico. No? Se c'è un comitato nell'aldilà che giudica il registro ai meriti patriottici, questa non ce la perdoneranno mai. Naturalmente ci avrebbero presto sterminati, almeno la prima infornata, e poi anche la seconda e la terza. Ma almeno l'Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi a fondo, e le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore. A Marco Della, te posso raccontare un sogno. Insomma, era carnevale e c'era tanta gente in giro, no? Ma tanta gente che non riuscivi a vedere nessuno. E in mezzo sfilava un carro con una capoccia enorme, grossa, come un pallone. E quella lì è la capoccia dei Mussolini. Duce, duce, duce, gridava la gente. Duce, duce, forte, che mi facevano male le orecchie. Guarda, c'è pure la Claretta. Ma la vecchia secca, nodosa, con le dita cuzze, pare una strega. La gente si avvicina e comincia a toccarla, a tirargli sulla gonna, a strappargli le calze. Qualcuno con la bocca, qualcuno coi denti. Gliele strappano e se le portano via a casa i pezzi. Questo è per mio figlio, questo è per mio marito. E questo è per me, e questo è per te, grida un uomo. Sale sulla capoccia enorme dei Bussolini e la butta a terra. Che fate, dice qualcuno. Un vecchio va lì davanti e gli sputa addosso. Una donna gli spara, un altro la pia schiaffi. Una ragazzina prende un bastone e comincia a darglielo sulla fronte. La capoccia ruzzola per strada e tutti la piano a carci. Un ragazzetto con una macchia rossa in fronte si mette a suonare. E tutti ballano. Ballano. Ballano e gridano. Gridano e ballano. Ballano e gridano. Ballano sulla capoccia dei Mussolini. Ballano addosso a Mussolini. Pure i magistrati, pure i poliziotti, pure i prefetti, pure la gente comune, tutta la maggioranza silenziosa balla e urla più di tutti. E io guardo, guardo davanti agli stendardi, le corone di fiori spennacchiate, le auto blu, i vigili urbani, lo metto con la fascia tricolore sul pacchetto, io lo guardo e guardo la cerimonia, i vecchi che ballano e cadono uno a uno, i vecchi che ballano e cadono uno a uno, e provo a ballare anch'io durante la cerimonia, e provo a ballare anch'io durante la cerimonia, ma non ci riesco, non so capace, allora mi metto lì e scrivo, perché io scriverei dappertutto. Scriverei sui tavoli, sulle sedie, sulle tazze del cesso, sulle facce dei cristiani, sui grugni. Scrivo e sto in silenzio. Scrivo e sto in silenzio.